Sono le tue scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata, e nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata. Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu. Ci sono le tue carte, il tuo profumo è ancora in questa casa, è proprio lì dove ti ho immaginata. C'eri tu. Scarpe ancora qua, ma tu non sei passata. Ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più. Un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata, proprio lì dove ti ho incontrata. Non ci sei più. Solo in questa casa buia e desolata, il tempo che dava l'amore lo tengo solo per me. Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata, quella che mi nascondevi tu l'ho trovata.